sguardo l'incontro, bella sì che il mio cor ansioso a lei volò. Mi ferì, mi invaghì quell'angelica beltà, sculta in cor dall'amor cancellarsi non potrà. Il pensier di poter palpitar con lei d'amor può sopir il martir che m'affanna, e strozia il cor, e strozia il cor.